Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, temi per così dire, perché a parte un tema che riguarda l'Europa, ossia le prospettive economiche dell'area euro, e nel caso specifico quelle italiane, il tema di oggi è identico a quello di ieri, purtroppo lo dico, nel senso che si chiama banche e pressione, voglio essere buono adesso, che il mercato sta mettendo sulle banche italiane. E con la doppia lettura che si fa, da un lato il caso specifico della Popolare di Vicenza, ma dall'altro anche e soprattutto l'idea che insomma tutto non si sia proprio risolto con il Fondo Atlante, e anzi che tutti i temi sullo sfondo restino sullo sfondo. Vedo il Banco Popolare adesso perdere 7,35%, il 7,12% lo perde Monte dei Paschi, 5,30% UbiBanca, Unicredit meno 4,70%, Pop Milano meno 4,34%, Emilia Romagna meno 4%, Fineco Bank, andiamo anche sul risparmio gestito, meno 3,80%, come Azimut, Mediobanca meno 3,60%. Di non bancario che va male c'è anche CNA Industrial che perde il 6,15%. Ancora, tra sempre i non bancari, Tenaris perde il 5% anch'essa, e Uxnet Aporté perde in questo momento il 4,40%. Su CNH, che è New Holland, pesano le incertezze sul fronte macchinari agricoli e i dati che arrivano dall'America in generale, per cui c'è tutto un ragionamento. Chi va bene è il debuttante, la debuttante Tecnogym. Questa mattina Nero Alessandri era ospite di Radio 24 di Giovanni Minoli, e in effetti Tecnogym fa il 12,25% a 3,64 euro. Poi c'è Monriff più 2,20, Class più 2,20%, anche sulle 24 ore recupera oggi l'1,80%. Ci sono chiaramente movimenti anche sul fronte RCS Media Group. Ieri il titolo aveva fatto un balzo, però dopo le smentite di una cordata alternativa a Cairo giunte da Pesenti e da Bonomi, il mercato comunque continua a pensare che la partita non sia finita con l'offerta di Cairo. Ancora, dicevo, delle previsioni economiche a livello europeo. Beh, le previsioni economiche a livello europeo vedono, come già avevamo capito nelle settimane scorse, una revisione a ribasso di tutti i titoli legati, di tutte le prospettive sulla crescita economica. Mediamente diciamo è lo 0,1% quello che viene rivisto a ribasso, ma più 1,1 complessivamente l'Italia nel 2016, il deficit al 2,4. Non sono particolarmente negative per l'Italia, nel senso che il deficit va anche un po' meglio del previsto, il rapporto deficit-PIL dal 2,5 al 2,4, però va un po' peggio nel 2017, dall'1,5 all'1,9, ma siamo sempre sotto il livello, la soglia limite del 3%. La disoccupazione che dovrebbe scendere solo gradualmente e quant'altro, adesso ne parleremo a brevissimo. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia anche sul sito di Radio 24. Vedo subito un messaggio, ma rispondo volentieri, polemico. Ci dica che l'affare Barisoni, ci dica che l'affare Popolare di Vicenza è colpa dei tedeschi cattivi, magari dei derivati di Deutsche Bank. No, guardi, come sa chi ascolta questo programma, noi distinguiamo tra le colpe italiane, abbiamo anche una classifica sugli sprechi di questo paese ogni venerdì, e sulla Popolare di Vicenza, così come su Veneto Bank, così come sulle popolari, le quattro popolari, diciamo, del decreto di fine novembre, abbiamo detto di tutto. Altra cosa è poi avere la capacità anche di dire: bene, i tedeschi però quando fanno i maestri si mettono con il gessetto davanti alla lavagna, dimenticano tutte le volte e con quanto hanno aiutato le loro banche, e giocano in maniera, a mio avviso, anche poco corretta, cercando di far pagare all'Italia o alla Spagna il peso che hanno i titoli di Stato nei portafogli bancari, dimenticandosi che hanno chiesto all'autorità bancaria europea di non diciamo, far pesare dentro i bilanci delle banche gli investimenti in derivati, perché chissà perché Deutsche Bank ne è ancora piena. Faccio notare che il dato non è mio, ma è del ministro Padoan: la media dei derivati presenti nelle banche italiane è il 20%, in Germania è la media dei derivati presenti è il doppio, il 40%. Comunque, le notizie in breve. E poi nello specifico sulle banche italiane, lo dico insomma perché abbiamo più volte ricordato come probabilmente nel 2012-2013 ci sia stato un patto quasi implicito tra una politica che doveva, aveva un paese che rischiava, che era sull'orlo del baratro del fallimento sul debito italiano, soprattutto diciamo fine 2011, inizio 2012, che ha voluto credere a quanto gli dicevano i banchieri, cioè che le banche italiane erano diverse. I banchieri lo dicevano per non perdere la carega, per non perdere la seggiola, come abbiamo capito in molti casi, non tutte le banche sono nello stesso modo, e la politica gli ha voluto credere in qualche modo per non avere un altro problema, anche perché in quel periodo fare operazioni di salvataggio sulle banche avrebbe voluto voler dire probabilmente aumentare il debito e quindi lo spread italiano. Ma c'è stato un combinato disposto in cui si è voluto credere a questa favola, cioè che un paese potesse perdere il 20% di produzione industriale, attraversare la più grande crisi dal 29 e avere un sistema bancario che non risentiva. Dopodiché a questo si sono aggiunte anche tutte le ruberie, cattivi comportamenti, malversazioni di alcuni vertici bancari su cui indaga la magistratura. Ma diciamo, la difficoltà del sistema non è imputabile solo agli amici degli amici e ai prestiti fatti agli amici degli amici. Allora, petrolio oggi in leggero calo, $43.6 al barile. Vado con le notizie internazionali. Invece c'è una cosa carina, insomma, dell'Ester si stanno occupando tutti, chiaramente. Insomma. È un po' come quando l'Hellas Verona vinse lo scudetto. Ahimè, perché adesso siamo in B. Però la cosa interessante è quanto ci stanno perdendo i bookmakers, gli scommettitori inglesi. Perché a inizio agosto la vittoria, cioè a inizio del campionato, era data 1 a 5.000. Qualcuno forse l'ha già sentito perché è già stato scritto, ma pensate che l'avvistamento del mostro di Loch Ness era 1 a 500. La possibilità di incontrare vivo Elvis Presley, 1 a 2.000. La possibilità che la nostra classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione venga, che finisca, non so quanto la possono dare i bookmaker inglesi. Però Leicester veniva dato 1 a 5.000, cioè mettevi un pound e ne guadagnavi in caso di vittoria del campionato dell'Leicester 5.000 pound. Ora, questo costerà, non sto scherzando, 12 milioni di euro ai bookmakers inglesi. William Hill, uno dei più famosi, pagherà 2 milioni e mezzo di sterline a 25, cavolo che botta che hanno preso questi, a 25 scommettitori fortunati, che hanno puntato sulla vittoria della squadra di Ranieri. Hanno puntato tra un massimo di 25 sterline, cioè chi ha puntato 25 sterline, un po' più di 30 euro, guadagnerà 125.000 sterline, quindi 135-140.000 euro. Chi ha puntato 5 sterline, cioè 8 euro, ne porterà a casa comunque 30.000, non è male. Allora, Mario Draghi, ieri veniamo all'Europa. Insomma, io non so se perché si avvicini, anche se con tempo, la scadenza del suo mandato, ma Draghi, insomma, si deve essere rotto le scatole di essere attaccato alla stampa tedesca e non mandargliela a dire. E continua a mandargliela a dire. Non gliele manda più a dire, scusatemi, perché ieri ha proseguito anche, prima ha detto che il persistere dei dubbi sul futuro dell'Unione Europea contribuisce ad aumentare l'incertezza di persone e imprese. E queste incertezze frenano consumi e investimenti e rimuoverle aiuterà il rilancio. Tradotto vuol dire, cari politici europei, finché continuerete a dare un'impressione, più di un'impressione, di un'Europa disgiunto in cui ognuno va per conto suo, la Germania, l'Austria e via così, nessuno si fiderà del futuro dell'Europa e questo blocca investimenti e consumi. Date appunto fatti politici, se ce la fate, e per tutti coloro che vogliono vedere tornare i tassi a un livello più normale, questa è una parte essenziale della soluzione. Cioè, ha detto, se volete che io torni ad alzare i tassi o abbia dei tassi, diciamo, l'Europa deve dare le risposte di medio e lungo termine, facendo capire che, e diminuendo, per meglio dire, l'incertezza. E poi, ripeto, ha detto, ha risposto anche alle recenti critiche tedesche sulla scelta di politica monetaria. Question marks over the future of the euro area and the European Union in general. Gli interrogativi sul futuro dell'Eurozona e in generale dell'Unione Europea hanno contribuito all'incertezza di privati e aziende, frenando consumi ed investimenti. Rimuovere questa incertezza quindi potrebbe aiutare a sostenere i consumi e liberare gli investimenti del continente. Non c'è dubbio che una riforma istituzionale dell'Unione Europea e della zona euro possa avere dei reali benefici economici. Perciò, per chi vuole un ritorno a tassi più normali, questa è senza dubbio una parte della soluzione. E oggi sul tema della disgregazione, del rischio, diciamo, di un'Europa che si disgreghi come tema economico, è tornato anche, è intervenuto anche il ministro dell'economia Padoan, il quale ha puntato più che sul patto di stabilità, deficit, debito, ha puntato proprio sul rischio Brexit e gestione dei flussi migratori. Ha detto Padoan, l'Europa sta vivendo una situazione eccezionale in cui si sta rischiando forse come non mai, da quando è stata inventata. Le regole si possono cambiare, a maggior ragione in una situazione eccezionale come quella di oggi, in cui l'Europa sta rischiando forse come non ha mai rischiato da quando è stata inventata. Chiedo scusa per la cattiva qualità dell'audio. Allora, altri temi vi sto ascoltando e vi dico che fate pena alla vostra falsità, tanto so che lei non leggerà mai questo messaggio, va bene. Infatti lo sto leggendo, degli italiani ve ne fregate, il termine è un altro. Lo sanno tutti, la pagherete anche voi la vostra omertà. E Padoan è un pagliaccio del Fondo Monetario e affossatore dell'Argentina e poi della Grecia. La pagherete anche voi la vostra omertà, o se la pagherete ed anche prima di quel che potete immaginare. Atlante, chiamatelo cassa, depositi e prestiti, cioè gli italiani, i soldi degli italiani, vermi di terra. Scommetto che un sms come il mio non lo leggerete mai, almeno questa scommessa è la persa. La verità fa male, diceva una canzone. Sì, la verità fa male, però anche certe droghe non è che facciano benissimo. Ma che cosa sta dicendo? Cioè, Padoan con l'Argentina. La cassa depositi e prestiti ha una quota nel Fondo Atlante obiettivamente minoritaria, altrimenti col cavolo che l'Europa ce la faceva passare. Il problema del Fondo Atlante non è la GDP, il problema del Fondo Atlante, come diremo tra poco, è che ha pochi soldi. Il minimo devono essere 6 miliardi, ne ha raccolti 4,2. E poi guardi che al di là di quello che vuole fare il governo, è l'Europa che non ci farebbe mai fare un'operazione del genere. Comunque andiamo avanti sulle, al di là delle banche italiane, oggi dove tra l'altro insomma ci sono state anche varie dichiarazioni, ha parlato oggi il membro del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea Ignazio Angeloni. Ha detto il Fondo Atlante e lo schema di garanzia dei GAC sono dei passi in avanti, ma non possono da sole condurre una svolta. La prima operazione è una prova importante, se conta con successo può innescare un circolo virtuoso. Beh, insomma, per ora è stato un passo falso. Mi riferisco al Polare di Vicenza. I crediti deteriorati in Italia sono 360 miliardi, questo è un lordo. Comunque, il massimo nell'area euro. Rappresentano il 18% degli impieghi complessivi delle banche rispetto al 16,8% di prima. E visto che parliamo di una brutta giornata di borsa, una seconda brutta giornata di borsa, ascoltiamo però almeno chi oggi può godere del debutto. Tecnogym sta chiudendo con un più 12,20%. Dicevo che il fondatore e creatore di Tecnogym, Nerio Alessandri, oggi è stato ospite di Giovanni Minoli a Mix24. Dopo l'offerta, dopo il collocamento, Tecnogym capitalizza a questo punto 650 milioni di euro a collocamento. I titoli assegnati a 19 investitori italiani e 44 esteri. Soddisfatto ovviamente Alessandri per il collocamento. Comunque ricordato che quotarsi in borsa è un atto di coraggio, ci staremo 100 anni. È un'evoluzione naturale, Technogy nasce da un piccolo garage, diventa grande leader, poi abbiamo avuto un accompagnamento di qualche anno di un private equity e al termine di questo ciclo di preparazione la borsa è un approdo naturale. Sì, ma anche per crescere ancora, per manageralizzare di più l'azienda e per far sì che l'azienda sia sempre più... Ma nell'azienda manageralizzata lei che ruolo si ritaglia? Ma io voglio tornare a fare il designer. Ah, ecco, va bene, si ricomincia, va bene, lo vedremo. Ma c'è quindi un filo rosso che lega la prima macchina costruita nel garage da di suo padre con lo sbarco in Piazza Affari? C'è questo filo? Sì, perché è sempre una maggiore assunzione di responsabilità. Per me ogni giorno è come il primo. Essere in Piazza Affari significa essere ancora più responsabili perché hai più azionisti e soprattutto certo. Le persone che sono clienti piuttosto che fornitori e amici. Ma in che direzione spera di crescere? Beh, noi siamo un'azienda globale, abbiamo l'Asia che è una grande opportunità, rimane ancora l'Europa un grande mercato per noi perché vale un poco più del 50% e poi ci sono gli Stati Uniti che sono una grande all'infinito. Opportunità. Alessandro, ho letto che la concorrenza dei produttori asiatici non la fa dormire, vero? Sì, perché non giocano ad armi pari. Perché? Perché ovviamente hanno dei costi molto più bassi di produzione, sfruttano la manodopera, chiamiamola, non come la nostra qualificata, perché hanno un approccio molto molto aggressivo e spesso si gioca su un campo che io non sono, come dire, molto adatto. Cioè? Ma è un modo diverso, diciamo. Noi puntiamo al lungo termine, puntiamo al fatto di non essere nel breve subito, cioè, ma nel costruire. Tutto subito voglio, no? Sì, è un modo diverso. Complimenti Alessandro per il debutto in borsa, non era facile oggi. Devo dire che c'è un ragionamento che potrebbe sembrare poco economico, in realtà il welfare, quindi tutte le strutture che gli stati hanno per garantire pensioni e sanità ai cittadini, è un tema delicatissimo, la popolazione invecchia e da questo punto di vista il tema della sostenibilità di questo sistema sociale è un tema delicatissimo. Alessandro, devo dire che ha collegato l'importanza del tema del benessere dei cittadini e dei dipendenti per gli stati e anche per le imprese. Sentiamo questo passaggio, visto che lui a Cesena ha costruito una quella che si chiama Wellness Valley, se non ricordo male, la valle, diciamo, la pianura del benessere, dove c'è il centro di ricerca, ma non solo, ha fatto un'operazione a modello americano, se non si offende. Sentiamo questo passaggio. Star bene conviene alle aziende per produrre di più e meglio, perché la creatività e la produttività di una persona dipende dal suo stato di benessere, conviene agli stati per ridurre la spesa sanitaria, non è sostenibile, noi conosciamo i bilanci della nostra Italia, non è sostenibile, se ci proiettiamo in avanti con le malattie e con le pensioni da pagare da qui a 5, 10, 20, 30 anni, se non partiamo dalla prevenzione non c'è sostenibilità, ma conviene soprattutto alle persone per vivere meglio. Senta Alessandro, ci sono paesi che sono un esempio invece in questo senso secondo lei? Beh, Singapore è, diciamo, il modello preso da tutti sul wellness, ma i paesi scandinavi sono assolutamente un esempio, ma devo dire anche tanti altri paesi si stanno adeguando, soprattutto perché le assicurazioni, che sono quelle che pagano e non come in Italia che è lo Stato che paga, si stanno preoccupando di educare i loro clienti certo, a sani stili di vita, perché conviene. Ma imprese private che l'hanno capito e lo seguono ci sono? Tantissime, noi siamo fornitori ufficiali di più di 5.000 aziende nel mondo. Ma che poi usano? Ma Google e Facebook hanno un programma wellness fatto da Technogym, piuttosto che tante aziende in Europa, le più note, e quindi ci sono già migliaia. E devo dire che anche in Italia ci sono dei casi. Sì, so che può sembrare un tema un po' così, ma il tema del benessere anche dei dipendenti, la battuta me la faccio da solo, intanto bisognerebbe avere un lavoro e questo lo so benissimo, però insomma, è un tema che le grandi, soprattutto le grandi aziende affrontano, perché poi ha una ricaduta sui costi gestionali delle persone importantissima. Allora, andiamo avanti invece con la giornata, e se festeggia Nelio Alessandri piangono tutte le banche oggi. C'è qualcuno che mi suggerisce al 349-238-6666 di cambiare il nome del fondo Atlante in fondo Atlantide. Beh, aspettiamo un attimo, dai, però la battuta non è male. Comunque, Alessandro Praterotti per i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, proprio su quello che sta succedendo al mondo bancario, mette assieme calo di Deutsche Bank anche ieri e oggi e il successo di Tecnogym, quindi la firma appunto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Ancora una giornata di passione sui mercati finanziari e soprattutto su quello italiano, dove il crollo delle banche, l'ennesimo purtroppo, sta compromettendo l'indice di borsa, l'indice maggiore ovviamente, e soprattutto la performance rispetto agli altri mercati. L'Italia perde più degli altri, oltre il 3%, le banche sono sotto accusa, soprattutto per quanto riguarda la loro tenuta, però in realtà bisogna continuare a guardare oltre e soprattutto oltre il caso italiano, se non altro per capire che i nostri problemi sono spesso il riflesso di quelli degli altri. Ma di che cosa stiamo parlando? Da stamattina si dice che il rallentamento cinese abbia condizionato l'andamento dei mercati a livello mondiale, che su tutti i settori pesano le scarse prospettive di crescita a livello globale, ma in realtà ci sono anche delle ragioni che riguardano proprio le banche, in particolare una. Da questa mattina il titolo più colpito a livello internazionale delle vendite è quello di Deutsche Bank, perde oltre il 6%, e teniamo presente che Deutsche Bank è considerato un po' un riferimento per l'intero settore creditizio europeo. Sono sotto pressione le banche tedesche, l'effetto dei derivati e il pericolo che il rallentamento possa far esplodere delle crisi, soprattutto tra l'Inghilterra e la Germania, i paesi dove le banche hanno più derivati nei loro bilanci, ebbene sono queste le realtà che in questo momento preoccupano, forse anche più dell'Italia. Purtroppo l'Italia, per la sua fragilità, diventa spesso il bersaglio anche dei problemi degli altri. In realtà guardiamo oltre, guardiamo anche quello che è successo oggi, in una giornata molto negativa, il debutto di Tecnogym, l'azienda italiana che realizza gli attrezzi per palestre, per la fitness, ma che soprattutto ha creato un modello di vita intorno alle macchine sportive. Beh, il debutto è andato con un rialzo dell'11%, come dire, non sempre le banche fanno la giornata, e soprattutto quando ci sono aziende che valgono e che sanno guardare avanti, il mercato le capisce bene. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, integrazione di quanto commentava Alessandro Praterotti, vedo che adesso però è Commerzbank a perdere il 9% in Germania, l'altro colosso bancario tedesco, e Deutsche Bank perde il 5%, c'è poco da sorridere in Italia, visto che la chiusura vede Monte dei Paschi perdere il 6,70%, il Banco Popolare il 6,40%, UbiBank il 5,1%, e comunque, visto che parliamo di nozze tra Banco Popolare e Pop Milano, anche la Pop Milano perde il 3,20%, la chiusura ancora provvisoria è meno 2,34% per Milano, meno 1,50% Parigi, meno 1,80% Francoforte, meno 0,60% Londra, meno 1,20% il Dow Jones. Mi sa che si ballerà ancora per un po'. E non questa musica, parlavo del mercato. Allora, Francesco Daveri, docente di politica economica alla Cattolica di Piacenza, buonasera. Buonasera. Io l'ho invitata perché vorremmo parlare con lei di Moscovici, delle prospettive dell'area euro oggi diffuse dal commissario che ha la delega agli affari economico-monetari, però un commento subito glielo devo chiedere su questa situazione che sta colpendo anche la Germania. Io so che insomma lei non, come attività di studio non si occupa in maniera precipua di banche, ma qui c'è uno scetticismo, da quello che lei ha capito, sul fondo Atlante o Atlantide come lo chiamano altri, e quindi sulla reale capacità che un fondo con riserve e dotazione tutto sommato esigua rispetto al compito, da lì il termine Atlante, da lì il nome Atlante, possa farci, possa cambiare le cose, o si stanno rimettendo in gioco tutti i ragionamenti sul patrimonializzazione e possibili perdite delle banche europee dell'area euro? Beh, mi sembra che lo shock colpisca un po' tutte le banche europee, come stavate raccontando fino a poco fa, quindi certamente non c'è solo un problema italiano, anche se sicuramente a casa nostra abbiamo delle specificità che altri paesi non hanno, cioè se le banche tedesche hanno troppi derivati, noi abbiamo troppo degli altri, le nostre banche hanno troppo degli altri asset, delle altre attività che sono poi il grosso dei crediti deteriorati con aziende che sono andate male durante la recessione degli ultimi dei 3 anni prima del 2015. Quindi questi sono i nodi che vengono al pettine. A questo poi si aggiungono i vari casi che hanno riguardato, che riguarderanno, speriamo, anche i tribunali negli anni a venire. Vabbè, sì. per la mala gestione, insomma, delle varie banche popolari e non popolari che sono arrivate appunto sull'orlo del fallimento, o comunque che in questi giorni hanno visto una ricapitalizzazione che si è fermata un po' prima. Da noi certamente pesa il fatto che il Fondo Atlante è una cosa nuova e sta provando a fare una cosa che non si è vista, cioè di imitare una banca centrale con poche munizioni, pochissime munizioni, però per fortuna che c'è il Fondo Atlante, perché sennò veramente saremmo già ad Atlantide da ieri più o meno. Quindi, sì. Dal mio punto di vista, la valutazione di quello che per fortuna che Atlante c'è, e poi bisognerà chiedersi semmai che cosa fare per riaprire questo fondo, che qualcosa mi sembra che il professor Penati abbia già cominciato ad accennare, perché per ora il Fondo Atlante è chiuso, però se per caso le risorse finiscono si potrebbe vedere in che senso riaprirlo, certo. E questo ha un senso se conviene metterci dei soldi, quindi occorre che le prime operazioni che fa Atlante funzionino bene. Quindi la Popolare di Vicenza adesso è stata sostanzialmente rilevata interamente da Atlante, beh, insomma, ci vorrà una ristrutturazione, nomina di nuovi manager o vecchi manager con una nuova missione, e insomma per poi venderla sul mercato. Ecco, se tutto ciò funziona, a quel punto diventa più facile pensare di andare oltre ad Atlante. Sì, guardate, che dico agli ascoltatori, poi parleremo anche dello specifico. È ovvio che la mancata quotazione della Popolare di Vicenza è un'autostrada per chi vuole speculare al ribasso, e anche per un ragionamento invece non speculativo sugli altri aumenti di capitale e sulla dotazione del Fondo Atlante, perché non sfugge a nessuno che i soldi sono pochi. Per cui, dopodiché, io sono d'accordissimo con Daveri, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, che poi ci deve essere anche un fronte giudiziario serio sui banchieri, che hanno tutti, papà di ministri piuttosto che amici dei potenti, non me ne frega nulla, che hanno portato a distruzione di valore dei risparmiatori del paese. Però non illudiamoci, e spero che le pene siano coinvolgano anche i vari organismi di controllo, collegi sindacali, organismi di vigilanza, se dovessero essere accertate, no? Revisori contabili, tutti. Detto questo, non illudiamoci che il problema sia solo di quanto ha distrutto valore Zonin, o di quello che hanno combinato in Popolare Etruria, o in Veneto Banca, o in Chieti, Ferrara e Marche, okay? Anche perché poi mi giunge voce che, insomma, sul fronte adriatico ci potrebbe essere qualche altro problemuccio, ma vediamo, e di altre banche. Il punto è che le sofferenze, 380 miliardi, 180 miliardi, 200 miliardi netti di sofferenze, sono stati accumulati anche per il crollo dell'attività produttiva di questo paese. E di questo torneremo a parlare dopo il meteo con Francesco Daveri, perché vorrei un suo commento sulle previsioni diffuse oggi da Moscovici. A me sembra che tutto sommato per l'Italia non vada nemmeno così male, ma vorrei il suo giudizio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Alla Welcome Italia facciamo cose normali, per questo siamo diversi. Ai nostri clienti rispondiamo in 3 squilli, controlliamo una volta al minuto la qualità dei servizi offerti, aggiorniamo ogni anno la nostra offerta via Nova con nuovi servizi di telecomunicazione e di collaborazione inclusi nel prezzo. E lo facciamo per tutti i clienti, vecchi e nuovi, e senza chiedere nulla in cambio. Siamo perfetti? No, siamo diversi. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in 3 squilli. Energy. Siamo Tribù, il primo gruppo digitale indipendente italiano. Con Sorgenia siamo full digital, un'app, e controlliamo consumi e costi. L'energia sta cambiando. Vieni su sorgenia.it, chiama l'800 920 920. Ogni energia all'impresa italiana. Energy. 0,90 di spread. Scopri Mutuo Casa Primavera di Veneto Banca. Fino al 30 giugno 2016 acquisti o ristrutturi casa a tasso fisso o variabile con spread a 0,90 fino a 20 anni. Chiama l'800 37 37 97. Esempio, mutuo a tasso variabile di 100.000 euro in 10 anni, TAN 0,90 TAIGUN 22%. Comprensivo di commissioni di istruttoria, spese incassorate, imposta sostitutiva, perizia e assicurazione sull'immobile. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi in filiale sul sito Veneto Banca. L'erogazione subordinata alla valutazione della banca. Tornano gli eco-incentivi Ford sui veicoli commerciali. Oggi Transit Custom è tuo a 15.000 euro, con 6.000 euro di vantaggi anche senza usato. E in più, leasing TAN 395 TAG 510 e 5 anni di garanzia Ford Protect. Scopri di più su Ford.it. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Minuti. Allora, ascoltiamo alcune delle previsioni diffuse oggi dal Commissario Europeo Moscovici, il quale ha detto che in Italia prosegue la crescita moderata all'1,1% nel 2016, era prevista 1,4, però 1,1. Poi il deficit invece 2,4 quest'anno, 1,2 l'anno prossimo, un po' peggio, un po' meglio quest'anno invece che 1,5, un po' peggio l'anno prossimo, 1,9. Il debito al 132% nel 2016, che scenderà al 131,8% nel 2017. Disoccupazione che scende in Italia, ma gradualmente, cioè all'11,4% nel 2016 e solo all'11,3% nel 2017. L'occupazione è in aumento, aggiunge Moscovici, ma più in termini di ore lavorate che di posti di lavoro. Ora cerchiamo un'intesa con l'Italia sulla flessibilità. In Italia la ripresa economica continuerà nel 2016 e nel 2017, sostenuta principalmente dalla domanda interna. La crescita del PIL è prevista dell'1,1% nel 2016 e dell'1,3% nel 2017. Non farò commenti oggi sull'esito delle nostre valutazioni sulla situazione di bilancio in Italia. Le valutazioni stanno proseguendo e comunicheremo le conclusioni più avanti questo mese. L'Italia è tornata alla crescita nel 2015 e dovrebbe accelerare sia nel 2016 sia nel 2017, con il rialzo della domanda interna. Il deficit di bilancio dell'Italia è previsto marginalmente in calo quest'anno, nonostante la previsione positiva sulla crescita. Stiamo discutendo con il governo italiano sia sulle prossime previsioni, sia sulla flessibilità che l'Italia ha già previsto nel bilancio 2016 in base alle regole del patto di stabilità. Si tratta di lavoro in corso. Abbiamo chiaramente avuto molti contatti con i nostri amici italiani e ho incontrato il ministro Padoan più di 10 volte dalla fine dell'anno scorso. Questo significa che dedichiamo la massima attenzione alla situazione italiana e cerchiamo di trovare un terreno comune per un'intesa. Allora, vedo qualcuno che dice... mamma mia, che palle... Quanto ti ha pagato Renzi per dire che l'Italia va bene? A me non sembra di aver detto che l'Italia va bene, ma Daveri, al di là di questo, queste previsioni, sapevamo che il PIL era rivisto un po' a ribasso, tutto sommato non sono così male per l'Italia, soprattutto il deficit, o no? Ma infatti, cioè, le previsioni di crescita del PIL sono all'1,1%, che grosso modo. Evidentemente Renzi ha pagato anche Moscovici, sì, mettiamola così, dai. E insomma, non so se all'interno della flessibilità oppure se gliele contabilizzano poi nel deficit queste ulteriori regalie. Però, insomma, al di là di tutto, indubbiamente sembra esserci un consenso sul fatto che l'Italia, insomma, fatti salvi qualche decimale, crescerà dell'1% o dell'1% e qualche cosa nel 2016, che è un po' meglio del 2015. Non è come dire che raddoppiamo il tasso di crescita, ciò di cui ci sarebbe bisogno per avere effetti più corposi sul mercato del lavoro, però insomma la crescita prosegue e almeno queste qui sono le previsioni fino a questo momento. Nello stesso tempo, come fa a proseguire questa crescita? Un po' perché il governo allenta i freni sul fronte del rigore fiscale, perché rispetto a quanto dovrebbe succedere al deficit, il nostro deficit aumenta un po'. Cioè, quello che noi vediamo nei numeri che pubblica la Commissione europea è un deficit che va giù dal 2,6 al 2,4 e quindi scende. Però in realtà, anziché al 2,4, senza le sforature della legge di stabilità 2016, avrebbe dovuto andare all'1,4. Quindi in realtà è quella lì la flessibilità di cui parla Moscovici, cioè che il governo italiano sostanzialmente, approfittando di varie clausole per gli investimenti pubblici, migranti, la sicurezza e così via, fa un po' più di spesa e un po' meno di tasse, soprattutto un po' più di spesa rispetto a quanto preventivato, e questo genera un po' più di PIL, ecco. questo è un po' la, e soprattutto però un po' più di deficit rispetto al preventivato. Però non si presenta male la, il quadro, perché rispetto ai francesi e agli spagnoli quello stavo dicendo, no, perché bisogna anche guardare gli altri, non è che nessuno, al netto di tutto, cioè, la Francia ci è ampiamente meglio. Sopra il 3% del deficit PIL, poi è vero che ha un debito molto più basso del nostro, ci mancherebbe. Sì, loro hanno un po' meno del 100 e noi siamo al 130, per cui, però la, diciamo, l'anno per anno ancora stentano, sono di là da ricondurre il deficit sotto il 3% che è la soglia europea, e mi sembra che sul fronte riforma adesso Hollande sta affrontando il loro Jobs Act, per intenderci, e mi sembra che gli scioperi non manchino in Francia, quindi lì la trattativa sarà lunga. La Spagna pure, devo dire, non è un PIL italiano che cresce in maniera particolare, 1,1%, io ci metterei la firma in questo momento per fare 1,1 dopo aver fatto 0,7 l'anno scorso, perché con sti chiari di luna non mi fido. Ascoltiamo però anche, dopo il traffico, però Moscovici, sulla situazione complessiva, visto che lei vi faceva riferimento ad Averi, dell'area euro, perché non c'è solo l'Italia, però il traffico. Focus Economia. La crescita economica in Europa resterà positiva, ma moderata nel 2016 e nel 2017, ad un livello vicino all'anno scorso. È dunque stabile. La crescita in Europa sta tenendo, nonostante l'indebolimento atteso di fattori come il prezzo del petrolio e il livello dell'euro, elementi che sono favorevoli per la nostra economia. La crescita tiene, nonostante un contesto internazionale difficile, resiste. È un buon segnale e significa che gli sforzi fatti fino ad ora stanno pagando. La disoccupazione dovrebbe scendere al di sotto del 10% nella zona euro nel 2017. È un'evoluzione positiva, ma il calo resta troppo lento. Le prospettive dell'economia mondiale sono meno positive, ma questo era atteso. Nel 2015 l'attività dei mercati emergenti ha conosciuto il ritmo più debole dal 2009. La situazione dovrebbe migliorare, ma va detto che le prospettive di ripresa restano fragili. Sul lato positivo, le misure straordinarie adottate dalla Banca Centrale Europea a marzo hanno migliorato l'accesso al credito e hanno ridotto il costo del finanziamento per imprese e famiglie. Quindi la politica della BCE ha avuto un impatto positivo sulla crescita, rafforzando in particolare le condizioni per gli investimenti. Davantage le condizioni favorables all'investissement. Allora, Daveri, visto che lei è un uomo di estremo realismo, queste prospettive sono già prudenti, dicevo l'1,1% per l'Italia, l'1,6% a livello europeo, anche stiamo parlando di... Che cosa potrebbe... Quindi mi sembra che potrebbero essere abbastanza realistiche. Che cosa però potrebbe andare storto? Nel senso che a me sembra che i mercati, scusami, le economie stiano già incamerando rallentamento, abbiamo già incamerato il rallentamento cinese, la recessione brasiliana... e anche russa. Il vero tema che potrebbe andare storto si chiama banche, vista la giornata di oggi in Germania come in Italia? Beh, banche, che poi vuol dire borse naturalmente, e quindi questo si riverbera sugli investimenti. Quindi la vera voce che poi alla fin fine potrebbe essere colpita è la voce degli investimenti. Se uno va a vedere in effetti le previsioni per l'Italia, l'1,1 viene fuori da un 1,5 dei consumi, ma addirittura 3,2% di crescita degli investimenti. Quindi visto che l'anno scorso hanno fatto 0,8 gli investimenti, è chiaro che qui si sta prevedendo che quadruplichi la crescita degli investimenti per l'anno che viene e che vada ancora meglio per il 2017 e ugualmente anche per l'Eurozona nel suo complesso. Ecco, tutto ciò in Italia per esempio da dove viene? Viene, vabbè, un po' da Mario Draghi e dalle sue politiche che riducono il costo del credito. Dall'altro lato la capacità produttiva inutilizzata è diminuita, cioè insomma siamo tornati quasi ai livelli pre-crisi di utilizzo degli impianti, ma più che altro perché un sacco di impianti sono chiusi. Quindi di fatto quelli, cioè, quelli che sono sopravvissuti sono tornati a quasi a pieno utilizzo. Certo. Esatto, quindi questo dovrebbe indurre le aziende a investire un po' di più che non negli anni passati. E poi ci sono le misure che ha messo in campo il governo, che sono il superammortamento, il credito, gli investimenti al sud, che però insomma bisogna un po' vedere, poi il fantomatico piano Juncker di cui si parla, se ne può anche non parlare per ora. Sì, quindi diciamo, nell'insieme sto boom degli il investimenti, piano Juncker è come Juncker, poi ognuno c'è il bicicletta aggettivo che vuole, nel senso. No, beh, ma Juncker in realtà, io per esempio ho una buona opinione di Juncker, perché mi sembra un burocrate molto politico, che quindi è grazie che ci sta regalando quel po' di flessibilità che possiamo avere all'interno dei trattati esistenti, quindi per me. Quindi lei ha un'opinione migliore di Juncker che del suo piano, posso dire così? Sì, questo sicuramente, questo sì, come il piano invece per ora diciamo che deve essere ancora riempito. No, ma è quel piano che, lo dico a chi è in ascolto, prevede che con 15 miliardi di finanziamenti europei, tra l'altro nemmeno soldi freschi perché vengono presi da altre voci di spesa, si generino magicamente 300 miliardi di investimenti privati. A me sembra una favola della buonanotte, però spero di sbagliarmi. E anche di tanto devo dire che oggi la Commissione Europea ha posto l'accento anche sulla Cina, i rischi considerevoli potrebbero arrivare dalla Cina, però ripeto, a me sembra che più che la Cina il vero problema possa essere una distruzione di valore, quindi di consumi, quindi di PIL, come conseguenza di ulteriori movimenti sismici nel mondo bancario, non necessariamente non solo italiano. Spero anche in questo caso di sbagliarmi anche tanto. Grazie intanto all'economista Francesco Daveri. Noi passiamo subito alla borsa per poi parlare appunto del mondo bancario. Boh, Andrea Fontana, se ti dico lasciamo stare le banche perché ne parliamo dopo, il collegamento si fa in fretta a farlo. Ci sono allora, Milano ha chiuso con un -2,46, Francoforte -1,94, Parigi -1,60, Monte dei Paschi ha perso 7,60, Popolare 7,20%, Ubibank ha perso 5,11, Unicredit 4,70, Pop Emilia Romagna -4,40, Pop Milano -3,50. Ne parliamo dopo. Quanto ho? Un 30 secondi. Allora, dopo il GR24, con te vorrei commentare invece Case New Holland, CNH -6%. Alla luce dei dati americani, Tecnogym conferma, ne abbiamo già parlato, che è la migliore in assoluto, più 11,40%. Si muove anche un po' il fronte editoria, però ti faccio fare un'analisi e un commento completo dopo il GR24 per recuperare qualche secondo. Vi dico che l'unico titolo positivo tra quelli a maggiore capitalizzazione è Moncler, più 0,96%, e che tra chi ha perso oggi è calato un po' meno. Enel -1,60, 2A -1,70, Exor -2%, Fiat ha perso il 3%, Eni e Saipem il 3%, anch'esse. Euro in rafforzamento a quota 1,15 sul dollaro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, ci sentiamo dopo il GR24. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. -18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Andrea Fontana, al di là dei titoli bancari, il resto della borsa, dicevamo oggi di pressioni anche su CNH che perde 6%, poi Tenaris -5,30, Jux Net-a-Porter -5,30%, Case New Holland. Sì, sono scattate le vendite su Case New Holland, anche protagonista peraltro di un più 25% nell'ultimo mese, sì. Dopo una trimestrale dove le perdite sono cresciute a 513 milioni di dollari, ma gli analisti avevano apprezzato ieri la conferma degli obiettivi per il 2016. Tuttavia lo scenario resta debole per il settore, in particolare per il settore agricolo e quindi per i macchinari e per le macchine impiegate nell'agricoltura, in particolare nel Nord America, e diciamo la debolezza generale dei mercati ha fatto scattare delle vendite importanti. Tenaris invece è stata la più penalizzata del settore petrolifero, vista la forte correzione del greggio, oltre il 2%, anche Eni ha perso oltre il 3%. Sì, forte correzione con un greggio però che è sopra i $43 al barile. Di Tecnogym abbiamo ampiamente detto. Invece Rizzoli, Corriere della Sera, perché sono tramontate le ipotesi di una cordata alternativa fatta da Pesenti oppure da Bonomi, però mi sembra di vedere che, insomma, intanto che c'è movimento sul settore editoria, vedo Class Editori più 4,30, Il Sole 24 Ore più 2,10%, Monriff più 2,40%. Però RCS? Sì, sono tramontate più che altro per la smentita che è arrivata dalla famiglia Pesenti e dal finanziere Andrea Bonomi su una partecipazione a un'eventuale cordata sotto la regia, si dice, di Mediobanca, ma il mercato sembra credere che una proposta alternativa a quella di Urbano Cairo possa arrivare, tant'è vero che il titolo si mantiene comunque sopra la proposta di scambio di Cairo, che ricordiamolo è a 0,51 euro per azione, siamo vicino ai 0,60 euro in un giorno di movimento per il settore dell'editoria, perché oltre ai titoli che tu muovevi, che tu sottolineavi, scusa, ci si è mossi anche su Banzai e su Mondadori, visto che si aspetta l'acquisto dei siti verticali tematici di Banzai da parte della Mondadori. Oggi Mondadori ha corretto il 4%, Banzai si è tenuta a più 1%, ma molti titoli di editoria sono stati sotto i riflettori. Ancora tra i titoli notiamo, oltre a quelli già citati, appunto, bene solo Moncler, Fiat Chrysler perde il 3%, c'è un Saipem cede sul prezzo del petrolio nonostante meno 3,20, nonostante abbia annunciato una nuova commessa da 1,300 milioni di dollari in Azerbaigian, no? Tra l'altro rinnovabile per altri 5 anni. Sì, certamente il tema delle commesse è un tema molto positivo per Saipem, che ha annunciato questa commessa da 1,3 miliardi di dollari e che già negli ultimi giorni era stata, come aveva spiegato l'amministratore delegato Cao in un'intervista al Sole 24 Ore, sotto i riflettori proprio per il tema delle commesse 2016, che sono il principale tema di attenzione per i broker, per gli operatori, ma oggi è prevalsa la correzione del greggio. Il comparto minerario in Europa ha perso oltre il 6%, l'energia ha perso circa il 3%, quindi la commessa potrebbe essere rivalutata dagli analisti, diciamo, a più medio termine, ma oggi è una giornata di forte correzione per il comparto. Allora, migliori e peggiori, Cassa del risparmio di Genova meno 8%, c'è anche MP7 Italia meno 14%, Monte dei Paschi, l'abbiamo detto, meno 7,60%, Mertecnimo meno 7,40%, Banco Popolare meno 7,17%, e anche il Credito Valtellinese perde 5,70%. I migliori, Tecnogym in assoluto, debuttante più 11,40%, e poi gli altri abbiamo detti, oltre a Classe anche Pininfarina più 2,95% e Orange più 2,14%. Per cento, noi restiamo invece in tema di borsa, perché come avete già capito anche oggi è stata una giornata di passione, oltre che il Monte dei Paschi e Banco Popolare, UBI ha perso 5,11%, Unicredit il 4,70%, Pop Emilia Romagna meno 4,40%, Mediobanca meno 3,80%, Pop Milano meno 3,5%. E poi Commerzbank che perde, è arrivata a perdere il 9% in Germania, a Francoforte, e Deutsche Bank che ha chiuso con un calo intorno al 5%. Per cento, dimostrazione che la pressione non è solo sulle banche italiane e non deriva solo dalla vicenda del Polare di Vicenza, dove ieri la borsa ha detto una cosa a mio avviso incontestabile, cioè il flottante non può essere dell'8%, il flottante è il numero di azioni che possono essere comprate e vendute di un titolo. Tu non è che quando ti quoti in borsa tutte le azioni tue siano contendibili, c'è una parte che è contendibile e quello si chiama flottante, e la borsa ha detto, insomma, per la quotazione è richiesto un flottante minimo del 25% del capitale, perché sennò io domani quoto la mia azienda un'azione, tutte le 99,9 periodico me ne tengo per me, e su quell'azione sarebbe peggio che una bisca. Allora, e in effetti era solo l'8%. A questo punto la Fondo Atlante deterrà il 99,3% della banca, lo 0,7% della Pop Vicenza, resta ai vecchi azionisti, che praticamente sono senza valore, 0,1 euro quando ne valeva 62 euro nel 2014, poi portati a 48, poi a 6 euro e adesso praticamente a nulla. Partiamo da chi invece ritiene che il Fondo Atlante è un passo in avanti, che la Popolare di Vicenza sia un banco di prova importante e ritiene auspicabile che altro capitale arrivi al Fondo Atlante, ed è uno dei membri della Banca Centrale Europea, Ignazio Angeloni, che è stato sentito oggi in audizione al Senato italiano. Il neocostituito Fondo Atlante rappresenta un passo ulteriore nella giusta direzione. La sua missione di intervenire sia sul capitale sia sugli NPL riflette giustamente il fatto che la cessione delle sofferenze e il rafforzamento della posizione patrimoniale rappresentano, in molti casi, due facce della stessa medaglia. Non dovremmo aspettarci tuttavia che queste due iniziative da sole possano condurre a una svolta. Resta infatti da verificare l'interesse degli investitori nei confronti dello schema di cartolarizzazione come proposto, soprattutto perché rimane ampio il divario fra la valutazione di mercato dei portafogli di NPL e i prezzi attesi dalle banche. Con la sua entità attuale relativamente ridotta, il Fondo Atlante sarà in grado di intervenire al massimo su un numero limitato di banche di piccole e medie dimensioni. La prima operazione del Fondo, che riguarda la Banca Popolare di Vicenza, cui collocamento si è concluso da poco, come avete visto, sarà una prova importante. È una prova importante. Se condotta con successo, può innescare un circolo virtuoso e attrarre anche altri investitori. Sarebbe fortemente auspicabile che un nuovo ulteriore capitale affluisse, soprattutto dall'esterno dell'Italia. Allora, Moria Longo del Sole 24 Ore qui in studio con noi. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. E grazie anche all'economista, nonché editorialista del Sole 24 Ore, Alberto Quadriocurzi. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera, buonasera. Moria, poi sentirò Quadriocurzi dopo il traffico, però intanto su Vicenza e il Fondo Atlante. Qui il tema, vabbè, al di là del fatto che la Borsa ha detto una cosa obiettivamente inattaccabile, il tema di fondo è che, insomma, questo Fondo Atlante, per non diventare, come scrivono gli ascoltatori, Atlantide, ha pochi soldi. L'abbiamo detto fin dall'inizio che 6 miliardi era la soglia minima, ne ha raccolti 4 miliardi e 600 milioni. Qui, già per comprare la Pop Vicenza ne ha speso una quota. E quindi va bene l'idea del fondo, va riempito però di ciccia. Sì, il fondo ha pochi soldi e vanno bene, bastano assolutamente per evitare rischi estremi. Se la Popolare di Vicenza non avesse fatto l'aumento di capitale, sarebbe scoppiato il finimondo. Quindi per questi rischi estremi, per evitarli... Perché andrebbe a toccare anche i correntisti con i bail-in. Esattamente, cioè, allora il fondo sarebbe serve per questo. Per risolvere il problema dei crediti deteriorati, che ammontano a livello lordo in Italia a 360 miliardi, ovviamente 4 miliardi, di cui già uno e mezzo abbondanti impegnati per la Popolare di Vicenza, non basta. Ma il problema delle risorse in realtà è un problema ampio che riguarda tutta la questione bancaria, perché il governo sta cercando di intervenire sulla questione bancaria su vari fronti. Il primo è quello di Atlante, che non è un fondo pubblico, è un fondo privato con soldi privati, ma diciamo sponsorizzato, caldeggiato dal governo. Dall'altra parte il governo sta facendo una serie di riforme alla legge fallimentare, al diritto fallimentare, per rendere più veloci le procedure di recupero crediti, che in Italia durano molto di più che negli altri paesi. Il problema qual è? Che anche su questo secondo fronte, cioè sulla riforma del diritto fallimentare, della velocizzazione dei tempi, in realtà quello che tutti gli avvocati fallimentaristi, o comunque gli esperti, dicono è che non basta cambiare la legge per velocizzare i tempi di recupero, i tempi della giustizia italiana, perché se nei tribunali mancano i cancellieri, mancano i giudici, l'informatizzazione non è sufficiente, i computer sono obsoleti, quei problemi restano. Quindi si può cambiare la legge, ma il problema resta, tant'è vero che già oggi a parità di legge abbiamo tribunali come quello di Siracusa, che una procedura fallimentare la fa durare 15 anni, e un tribunale come quello di Torino, che a parità di legge è una procedura fallimentare, sì, che dura 4 anni. C'è anche un problema di responsabilità e capacità di organizzare l'ufficio da parte dei procuratori capo, perché assolutamente, cioè, non vorrei che i magistrati in questo paese fossero massima, però sempre esonerati dal tema dell'efficienza e della produttività. Assolutamente, su questo non ci piove. Però anche qua servirebbero delle risorse, non soltanto riforme, ma anche risorse, perché purtroppo quello che in Italia, tutte le iniziative che caratterizzano l'Italia, che si fanno tante belle cose, tante belle parole, ma poi alla fine, quando bisogna mettere i soldi, non ce li mette nessuno. Allora, professor Quadricurzio, riprenderò questo tema con lei dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Però, professore, non mi sfugge che oggi vanno male e molto male anche due colossi bancari tedeschi. Io vorrei capire se poi sullo sfondo, al di là del caso italiano, non ci sia il rischio di un nuovo attacco, diciamo, al sistema bancario dell'area euro. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, professor Quadricurzio, prima un commento su Fondo Atlante e vicenda della Popolare di Vicenza, poi arriviamo al resto del settore bancario europeo. Ah, sul Fondo Atlante, quello che ha detto Moria Longo è condivisibile. Credo che ciò che rilevi maggiormente è il tentativo di incominciare a incutere un po' di fiducia piuttosto che incutere continuo timore. Detto questo, siamo tutti aggrappati a una speranza che in altri casi simili a quello della Vicenza non ci si trovi di fronte a un insuccesso così clamoroso che porta alla impossibilità di quotare sul mercato il titolo per quanto poco lo stesso possa valere, perché questo sarebbe veramente un dramma, anche perché la fiducia, temo, andrebbe a volatizzarsi. Sì, però chiariamo, speriamo, professore, che qui la colpa non è del fondo, in senso stretto, è che nell'aumento di capitale non hanno trovato adesioni. Cioè, Iori è andato a proporre un aumento di capitale e pochissimi hanno voluto mettere altri soldi per aumentare il capitale della Vicenza, con la conseguenza che il Fondo Atlante si è trovato ad avere il 92% del capitale. Certo, no? Nel senso, certo, perché no, il Fondo Atlante non ha responsabilità in tutto ciò, il problema è un problema di sistema, e questo problema il Fondo Atlante sta cercando di tamponare con quello che per ora non è stato un grandissimo successo, salvo, come diceva Longo prima, il successo di aver evitato un default della Popolare di Vicenza. È già qualcosa. Ma naturalmente ciò non significa che il problema sia risolto. Ora arriviamo al resto, perché se fosse tutto un problema della Popolare di Vicenza, sapete, insomma, no, qui il problema è del settore bancario. Abbiamo visto oggi i dati italiani e riferivo anche di quelli tedeschi. Professore, lei ritiene che ci possa essere, insomma, che si stiano muovendo anche i fondi stranieri, anche i fondi non europei, insomma, che ci possa essere, così, non dico un attacco perché non mi piace il termine, ma un'ondata di vendite su tutto il settore bancario, oppure stiamo ancora ragionando così di situazioni specifiche ma non ascrivibili a un fenomeno complessivo? Ma io credo che incominci a delinearsi il cedimento del margine di interesse di tutto il settore bancario europeo a causa dei tassi di interesse zero o negativi, e quindi della difficoltà di fare dei bilanci dignitosi. D'altra parte, il caso della Commerzbank è stato esattamente spiegato per la caduta sotto zero dei tassi di interesse, e quindi il margine di interesse si è pressoché volatizzato. Questo porta in causa la stessa politica della Banca Centrale Europea, perché o tutte le banche diventano soggetti di private equity, diventano soggetti di gestione di patrimoni, oppure se fanno l'attività bancaria tradizionale che dà i rendimenti tramite il margine di interesse, addio margine di interesse. Quindi qui è un problema più generale di politica monetaria vis-à-vis a fronte di una politica fiscale che purtroppo l'Europa non fa. Io credo che la politica monetaria sia arrivata al capolinea e l'abbia anche superato il capolinea, e in assenza di una politica fiscale espansiva ma di portata grande, le sofferenze e il problema delle banche non finirà presto. Cerco di far capire a tutti, nel senso che allora il fatto che Mario Draghi abbia portato a zero il tasso di interesse fa sì che intanto sono finiti sotto zero anche i rendimenti di molti titoli di Stato, penso ai nostri, ma non solo. Però soprattutto le banche come guadagnavano una volta? Diciamocela tutta, guadagnavano con tassi di interesse più alti sulla differenza tra quanto tu denaro lo prendevi dalla BCE, la dico male ma ci siamo capiti, e quanto, non solo dalla BCE, della raccolta complessiva e a quanto lo offrivi. Allora, con tassi interesse, poniamo al 2,5% e un'offerta 4, 5, 6%, quella differenza era il guadagno delle banche. Nel momento in cui la curva dei rendimenti si appiattisce, come dicono gli esperti, e ho qui di fronte Moria Longo, è chiaro che si appiattisce anche il margine per le banche. Se il tasso è allo 0,1 o è a 0, tu potrai chiedere l'1, il 2, non di più, cioè nel senso che... E quindi il timore tedesco o l'arrabbiatura tedesca, che vedono perdere profitti anche le banche tedesche, dire per colpa di Draghi noi stiamo guadagnando poco. Ma Draghi fa, a nostro avviso, quello che andava fatto dalla BCE, cioè rendere accessibile il costo del denaro per far ripartire un po' l'economia e un po' di inflazione con maggiori consumi. Moria Longo, quando Curzio diceva, però attenzione, qui il ragionamento che si pone sull'effetto che avrà a lungo andare una politica di tassi bassi. Diciamolo a tutte però, in America questo problema non c'è stato, perché nel frattempo c'era un altro braccio, che era quello espansivo, e cioè di investimenti pubblici. Allora, se tu questi soldi li usi per far ripartire l'economia, le banche non guadagneranno più in un certo modo, ma tornano a guadagnare perché riparte l'economia. Qui abbiamo solo la liquidità, ma non abbiamo gli investimenti. Sì, esattamente. Negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono l'unica parte del mondo dove il quantitative easing, quindi questa politica monetaria di stampa della moneta, diciamo così, ha funzionato veramente, ha fatto ripartire l'economia. Ma perché? Primo, perché non è stata solo la banca centrale a stampare moneta, ma è stato il governo, tra virgolette, a stampare moneta, a fare una politica espansiva fiscale. Tant'è vero che il deficit degli Stati Uniti è passato dal 2007 era sotto il 3%, è arrivato al 12% in due anni. Adesso poi è calato moltissimo. Quindi c'è stato uno sforzo congiunto di banca centrale e governo. Il terzo motivo per cui negli Stati Uniti la politica monetaria funziona molto di più che in Europa è che gli Stati Uniti hanno un sistema economico non bancocentrico. In America le imprese si finanziano direttamente sul mercato, per cui se la banca centrale butta soldi sul mercato, certo, arrivano direttamente all'economia reale. In Europa no, il mercato finanziario è asfittico, il sistema imprenditoriale si finanzia al 90% in banca, per cui se non si risolvono i problemi delle banche, buttare soldi nel mercato finanziario è come mettere acqua in un lavandino intasato, l'acqua non scende. Quindi questo è il motivo per cui in Europa, oltre alla politica monetaria, servirebbe uno sforzo maggiore, non soltanto da parte dei governi, quindi con uno sforzo fiscale, ma anche uno sforzo strutturale per cambiare strutturalmente il metodo di approvvigionamento delle imprese. A me dispiace, ma torniamo sempre lì, professor Quadricurzio, cioè tu stampi moneta, e lo sta facendo Draghi, tieni i tassi ai minimi storici, i rendimenti dei BTP sono negativi, quindi i paesi che devono indebitarsi ne hanno un vantaggio, ma se poi non ci sono gli investimenti, cioè l'unico effetto che hai è che le banche hanno meno margini, cioè hai l'effetto anche l'altro che noi... L'altro effetto che si è avuto, certamente positivo, è stato quello di sedare gli spiriti aggressivi contro i titoli di Stato, spiriti aggressivi che c'erano nei mercati, perché si è capito che quantomeno i titoli di Stato venivano difesi fino all'ultimo euro da parte della BCE. Ma questo effetto non è un effetto risolutivo. Dirmi che il piano Juncker produrrà 315 miliardi di investimenti, ne abbiamo parlato prima, anni, è una balla. Appunto, ne è passato un però anno. Mi dica una cosa, sì, per chiudere, sì. Ma lei ritiene che a questo punto arriverà sempre più pressione sulle banche dell'area euro? Perché i tedeschi vorrebbero che Draghi tornasse a aumentare i tassi, così guadagna qualcosa le banche, sì, ma l'economia a questo punto si pianta e si ferma in tutta Europa. Arriverà o no? Ma guardi, io continuo a sperare che ci sia uno scambio virtuoso, e cioè che la BCE incomincia ad alzare i tassi, ma che si faccia una grossa spinta degli investimenti europei attraverso l'emissione di titoli di Stato europei. Tra l'altro questi titoli di Stato in un modo o nell'altro stanno già circolando, non solo perché la Banca Centrale Europea incomincia a detenere dei titoli eurobond sintetici, cioè composizioni dei titoli di Stato dei vari paesi, che è di per sé un eurobond sintetico, ma anche perché il Fondo Salva Stati, ESM, ha emesso titoli europei. Quindi guardi, stiamo nascondendo dietro un dito. Chissà se poi le banche tedesche non fanno pressione sul governo tedesco, perché un po' di rialzo dei tassi gli permetterebbe di guadagnare qualcosa in cambio di una Germania più morbida su investimenti di carattere europeo. Grazie ad Alberto Quadricurzio, grazie a Moria Longo e da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.